Pulizie alla canonica. Uffa, disse Faith, rizzandosi a sedere sul letto con un brivido. Piove. Detesto le domeniche in cui piove. Le domeniche sono già abbastanza noiose quando c'è bel tempo. Non dovremmo dire che le domeniche sono noiose, disse una ancora sonnata, tentando di schiarirsi la mente insonnolita e vagamente consapevole di aver dormito troppo. Però lo diciamo lo stesso, disse Faith con franchezza. Mary Vance dice che sono così noiose che le viene voglia di impiccarsi. Beh, noi dovremmo avere un'opinione migliore di quella di Mary Vance riguardo le domeniche, disse una con un po' di rimorso. Siamo le figlie del pastore? Forse sarebbe stato meglio essere le figlie di un fabbro, protestò Faith arrabbiata mentre cercava le calze. Così la gente non pretenderebbe che ci comportiamo meglio degli altri bambini. Oh, guarda che buchi in queste calze. Mary le aveva rammendate prima di andarsene, ma ora sono peggio di prima. Una, alzati, non posso occuparmi da sola della colazione. Santo cielo, quanto vorrei che papà e Jerry fossero qui. Non pensavo che mi sarebbe mancato così tanto, papà. Non è che lo vediamo così spesso quando è in casa. Eppure sembra che manchi tutto. Vado a vedere come sta zia Marta. Sta meglio? Chiese una quando Faith ritornò. No, continua a lamentarsi e a brontolare. Forse dovremmo dirlo al dottor Blythe. Lei però dice di no, dice che non ha mai chiamato un dottore in vita sua e non ha intenzione di cominciare adesso. Secondo lei i dottori si guadagnano da vivere avvelenando le persone. Pensi che sia vero? No, certo che no, disse una indignata. Sono sicura che il dottor Blythe non avvelena nessuno. Beh, dopo colazione dobbiamo tornare da zia Marta a farle un massaggio alla schiena e dobbiamo stare attenti a non scaldare troppo i panni di flanella, come abbiamo fatto ieri. Faith ridacchiò a quel ricordo. Avevano quasi ustionato la povera zia Marta. Una sospirò. Mary Vance avrebbe saputo perfettamente qual era la giusta temperatura dei panni di flanella da applicare su una schiena dolorante. Mary sapeva tutto, ma loro invece non sapevano niente e non avevano altro modo di imparare se non attraverso dure esperienze di cui in quel caso era la povera zia Marta a pagare il prezzo. Il lunedì precedente il signor Meredith era partito per la Nuova Scozia, dove avrebbe trascorso una breve vacanza e aveva portato Jerry con sé. Proprio quel mercoledì zia Marta era stata improvvisamente colta da una misteriosa e ricorrente malattia che lei chiamava il tormento e che quasi sempre la colpiva nei momenti più inopportuni. Non riusciva più ad alzarsi dal letto e ogni movimento era fonte di terribile sofferenza. E lei si rifiutava di chiamare un dottore. Faith e Una si occupavano dei pasti e di assisterla. Beh, sui pasti è opportuno stendere un velo pietoso, sebbene non fossero poi tanto peggiori di quelli preparati da zia Marta. In paese c'erano diverse donne che sarebbero volentieri venute a dare una mano, ma la zia Marta non voleva che in giro si sapesse della loro situazione. Dovete darvi da fare finché non mi sarò ripresa, brontolava. Grazie al cielo, John non c'è, ma c'è un sacco di bollito freddo e di pane e potreste provare a fare la pappa di avena. E le ragazze in effetti ci avevano provato, ma fino a quel momento con scarso successo. Il primo giorno era venuta troppo liquida, il secondo così densa che si poteva tagliare a fette con il coltello, e in entrambe le occasioni si era bruciata. Detesto la pappa di avena, disse Faith con aria feroce. Quando avrò casa mia non la preparerò mai. E come faranno i tuoi figli? Chiese una. I bambini devono mangiare la pappa di avena per crescere. Lo dicono tutti. Boh, troveranno il modo di farne a meno. Oppure resteranno dei nani, rispose Faith testarda. Tieni una, continua a mescolare mentre io apparecchio. Appena mi distrago un attimo, questa brodaglia orribile si brucia. Sono le 9:30, faremo tardi alla scuola domenicale. Finora non ho visto nessuno passare, disse una. Probabilmente molti non metteranno il naso fuori di casa, guarda quanto piove. E poi, visto che non c'è il pastore, chi vive lontano non si prenderà la briga di portare i bambini. Va a chiamare Carl, disse Faith. Venne fuori che Carl aveva il mal di gola, causato probabilmente dall'essersi infradiciato la sera prima nella valle dell'arcobaleno mentre inseguiva delle libellule in un tratto paludoso. Era tornato a casa con scarpe e calzini bagnati e li aveva tenuti addosso per il resto della serata. Non aveva voglia di fare colazione e Faith quindi lo rimandò a letto. Lei e Una lasciarono la tavola così com'era e andarono alla scuola domenicale. Quando arrivarono non c'era nessuno nell'aula e nessuno arrivò. Aspettarono fino alle 11 e poi se ne tornarono a casa. Neanche alla scuola domenicale metodista è andato nessuno, mi pare, disse una. Meglio così, disse Faith, non mi piace l'idea che i metodisti siano meglio dei presbiteriani quando si tratta di andare alla scuola domenicale nei giorni di pioggia. Però anche da loro non c'è il pastore, perciò probabilmente la scuola è di pomeriggio. Una se la cavò piuttosto bene a lavare i piatti, abilità che aveva imparato da Mary Vance. Faith spazzò per terra e pelò le patate per la cena, tagliandosi un dito nel corso dell'operazione. Quanto vorrei che avessimo qualcos'altro per cena invece del solito, sospirò una. Non ne posso più di mangiarlo. Pensa che i ragazzi Blythe non sanno nemmeno cosa sia. E da noi non c'è mai il budino. Nan dice che Susan potrebbe svenire se non ci fosse il budino di domenica. Ma perché non siamo come tutti gli altri, Faith? Io non voglio essere come tutte le altre, rise lei mentre si fasciava il dito sanguinante. Mi piace essere me stessa. Jessie Drew è un'ottima casalinga come sua madre, ma davvero vorresti essere stupida come lei? Ma casa nostra è un disastro, l'ha detto Mary Vance. Dice che la gente parla in continuazione di quanto è sporca e disordinata. A quel punto Faith ebbe un lampo di ispirazione. Puliamola noi, esclamò. Possiamo metterci al lavoro già domani. È un'ottima opportunità. La zia Marta è a letto e non può metterci i bastoni tra le ruote. Così quando papà tornerà, troverà tutto pulito e in ordine, come quando c'era Mary. Non ci vuole niente a spazzare, spolverare, lavare i vetri. Può farlo chiunque. E la gente la smetterà di parlare di noi. Jen Blythe dice che sono solo delle vecchie galline. Ma le loro chiacchiere fanno comunque male. Speriamo di riuscirci, disse una presa dall'entusiasmo. Oh, Faith, sarà bellissimo avere tutto pulito ed essere come gli altri. Speriamo solo che il tormento di zia Marta duri per tutta la giornata, disse Faith, altrimenti non potremo fare nulla. Questo amabile desiderio di Faith fu esaudito. Il giorno seguente la zia Marta non riusciva ancora ad alzarsi. Anche Carl era ancora malato. E fu facilmente persuaso a rimanere a letto. Né Faith né una avevano idea di quanto stesse male. Una madre premurosa avrebbe subito chiamato il dottore, ma purtroppo non era questo il caso. Il povero piccolo Carl, con la gola in fiamme, il mal di testa e le guance rosse, si rigirò tra le lenzuola e soffrì da solo, confortato solo dalla compagnia di una piccola lucertola verde rannicchiata nella tasca del pigiama lacero. Dopo la pioggia, il mondo era immerso nella luce del sole estivo. Era il giorno perfetto per le pulizie di casa e Faith e una si misero allegramente al lavoro. Dobbiamo pulire la sala da pranzo e il salotto, disse Faith. Non mi sembra il caso di occuparsi dello studio e il piano di sopra non è poi così importante. Prima di tutto dobbiamo svuotare le stanze. E così fecero. I mobili furono ammucchiati nella veranda e sul prato, e la recinzione del cimitero metodista fu vivacemente decorata con i tappeti. Seguì un frenetico passaggio di scope e un tentativo da parte di una di spolverare, mentre Faith provava a lavare le finestre della sala da pranzo, mandando in frantumi un vetro e crepandone due in corso d'opera. Una osservò poi con sguardo dubbioso il risultato costellato di aloni. C'è qualcosa che non va, disse. Quando lo fanno la signora Elliot o Susan, le finestre scintillano. Beh, non importa, in ogni caso fanno passare la luce del sole, disse Faith allegramente. Devono per forza essere pulite con tutta l'acqua e il sapone che ho usato. E alla fine è questo che conta. Bene, sono le 11 passate, adesso asciugo questo disastro sul pavimento e poi usciamo. Tu spolveri i mobili e io sbatto i tappeti. Penso che andrò a farlo nel cimitero, non voglio spargere polvere per tutto il prato. Faith si divertì molto con i tappeti. Sbatterli sulla lapide di Ezekiah Pollock fu un vero divertimento, nonostante lo sguardo di cupa disapprovazione che ricevette da Abraham Clow e da sua moglie, passati di lì con il loro spazioso calesse. È uno spettacolo terribile, non trovi? Disse lui in tono solenne. Non ci avrei creduto se non l'avessi visto con i miei occhi, rispose ancora più solennemente la signora Clow. Faith li salutò agitando lo zerbino della porta d'ingresso e non badò al fatto che loro non avessero ricambiato il saluto. Sapevano tutti che il signor Abraham non aveva più sorriso da quando era stato nominato sovrintendente della scuola domenicale 14 anni prima. Le disse dispiacque però non essere salutata da Minnie e Adela Clow. Faith le trovava simpatiche. Dopo i Blythe, a scuola erano tra le sue migliori amiche e lei aiutava sempre Adela a fare le addizioni. E questa era la gratitudine che riceveva in cambio. Le sue amiche la ignoravano perché stava sbattendo i tappeti in un vecchio cimitero dove da anni, come diceva Mary Vance, non veniva sepolta anima viva. Faith tornò irritata verso la veranda, dove trovò una afflitta perché le ragazze Clow non avevano salutato nemmeno lei. Immagino che siano arrabbiate per qualche motivo, disse Faith. Forse sono gelose per tutto il tempo che passiamo a giocare con i Blythe nella valle dell'arcobaleno. Beh, aspetta che riapra la scuola e che Adella mi chieda di aiutarla con le addizioni. Allora pareggerò i conti. Vieni, rimettiamo tutto a posto. Sono stanchissima. E non credo che le stanze avranno un aspetto molto migliore di prima, anche se nel cimitero mi sono liberata di un bel po' di polvere. Detesto le pulizie di casa. Quando le due stanche ragazze terminarono di rimettere a posto le stanze, si erano fatte le due. Consumarono un magro pasto in cucina, con l'idea di lavare i piatti subito dopo, ma a Faith capitò sotto mano un nuovo libro di racconti che Dee Blythe le aveva prestato e si perse in quel mondo fino al tramonto. Una salì a portare a Carlo una tazza di tè rancido, ma lo trovò che dormiva, perciò si rannicchiò sul letto di Jerry e si addormentò a sua volta. Nel frattempo, uno strano pettegolezzo si diffondeva per tutta Glen St. Mary e per l'ennesima volta la gente si chiese preoccupata cosa bisognasse fare con quei ragazzini della canonica. «Non c'è niente da ridere, credi a me», disse la signorina Cornelia a suo marito con un profondo sospiro. All'inizio non ci credevo. Miranda Drew mi ha raccontato tutta la storia mentre tornava dalla scuola domenicale metodista questo pomeriggio, ma io non le ho dato peso. Poi però la moglie di Abraham Clow ha detto che lei e suo marito hanno visto tutto con i loro occhi. Hanno visto cosa? Chiese Marshall. Questa mattina Faith e una Meredith non sono andate alla scuola domenicale e hanno fatto le pulizie di casa, disse la signorina Cornelia in tono desolato. Abraham si è fermato alla parrocchia a sistemare i libri della biblioteca e quando è tornato a casa le ha viste sbattere i tappeti nel cimitero metodista. Non riuscirò più a guardare un metodista in faccia. Che scandalo! In effetti fu un vero scandalo e si fece ancora più scandaloso man mano che si diffondeva, al punto che dall'altro lato della baia la gente raccontava che i bambini della canonica non solo avevano pulito casa e fatto il bucato di domenica, ma avevano anche concluso in bellezza con un picnic pomeridiano nel cimitero, proprio nell'orario della scuola domenicale metodista. Gli abitanti della canonica furono gli unici a rimanere in una beata ignoranza. Il giorno successivo, che Faith e Una ritenevano in buona fede un martedì, piove di nuovo. E continuò per i 3 giorni seguenti. Nessuno passò dalla canonica e loro non andarono da nessuna parte. Avrebbero potuto al massimo attraversare la valle dell'arcobaleno immersa nella foschia per salire a Ingleside, ma la famiglia Blythe, a parte Susan e il dottore, era in visita ad Avonlea. Questo è l'ultimo pezzo di pane, disse Faith, e abbiamo finito anche il solito. Che faremo se zia Martha non migliora? Possiamo andare a comprare del pane in paese e c'è il merluzzo che Mary ha essiccato, disse una, solo che non sappiamo come cucinarlo. Oh, è facile, rise Faith, basta bollirlo. Lo bollirono, ma poiché non sapevano che prima andava tenuto in ammollo, risultò troppo salato da mangiare. Quella sera andarono a dormire affamate, ma il giorno dopo tutti i problemi scomparvero. Il sole tornò a illuminare il mondo, Carl era guarito e anche il tormento della zia Marta sparì di colpo, così come era arrivato. Il macellaio fece un salto alla canonica e pose fine alla carestia e a coronamento della giornata i Blythe tornarono a casa. Quella sera, al tramonto, si riunirono ai bambini della canonica e a Mary Vance nella valle dell'arcobaleno, dove le margherite ondeggiavano nell'erba simili a spiriti della rugiada. E le campanelle sugli alberi innamorati suonavano i loro rintocchi fatati nell'aria profumata del crepuscolo. Una terribile scoperta. L'avete fatta grossa, miei cari, fu il saluto di Mary quando raggiunse gli altri nella valle. La signorina Cornelia era su a Ingleside impegnata in un tormentato conclave con Anna e Susan E Mary sperava che quella sessione di chiacchiere durasse a lungo perché erano passate 2 settimane dall'ultima volta in cui aveva avuto il permesso di andare a divertirsi con i suoi amici nella cara Valle dell'Arcobaleno. Che abbiamo fatto? Risposero tutti all'unisono, tranne Walter che come al solito stava sognando a occhi aperti. Sto parlando di voi della canonica, disse Mary. È stato davvero orribile da parte vostra. Io non avrei mai fatto niente del genere e non sono mica stata educata in una canonica. Anzi, non sono stata educata per niente, sono cresciuta e basta. Ma che abbiamo fatto? Chiese Faith perplessa. Cosa avete fatto? Davvero c'è bisogno di chiederlo? Girano dei pettegolezzi terribili. Credo che la reputazione di vostro padre nella congregazione sia rovinata per sempre. Non la supererà mai, pover'uomo. Danno tutti la colpa a lui e non è giusto. Ma è questo mondo a non essere giusto. Voi però dovreste vergognarvi. Ma cosa abbiamo fatto? Chiese una disperata. Faith non disse nulla, ma i suoi occhi castano dorati si posarono irritati su Mary. Oh, non fate tanto le innocentine, le fulminò Mary. Lo sanno tutti cosa avete fatto. Io no, la interruppe Jem Blythe indignato. E non provare a far piangere una, Mary Vance. Di che stai parlando? Immagino che voi non sappiate nulla, visto che siete appena tornati, disse Mary in tono un po' più sommesso. Jem riusciva sempre a placarla. Ma tutti gli altri sì, credetemi. Ma di cosa stai parlando? La scorsa domenica Faith e Una non sono andate alla scuola domenicale e si sono messe a fare le pulizie di casa. Non è vero! Esclamarono infervorate le due. Mary le guardò sprezzante. Oh, non pensavo proprio che l'avreste negato, dopo tutte le volte che avete rimproverato me per le bugie, disse. E poi a cosa serve? Lo sanno tutti che è così. Il signor Clow e sua moglie vi hanno viste. Qualcuno dice che questa faccenda distruggerà la parrocchia, ma io non arrivo a pensare a tanto. Alla fine siete delle persone carine. Nan Blythe si avvicinò e strinse a sé le sconcertate Faith e Una. Così carine che ti hanno accolta e ti hanno dato da mangiare e da vestire quando stavi morendo di fame nel fienile del signor Taylor, Mary Vance, disse. Non mi sembri molto grata per questo. Oh, invece lo sono, ribatté Mary, e lo sapresti se mi avessi sentita difendere il signor Meredith da tutte le accuse. Mi si è seccata la lingua a furia di parlare bene di lui questa settimana. Ho detto e ripetuto che non è colpa sua se le sue figlie si sono messe a pulire la casa di domenica. Lui non c'era e loro avrebbero dovuto saperlo che non sta bene. Ma non l'abbiamo fatto, protestò una. La casa l'abbiamo pulita lunedì. Vero, Faith? Certo che sì, disse Faith con gli occhi fiammeggianti. E siamo andate alla scuola domenicale, nonostante la pioggia, solo che non c'era nessuno, nemmeno il signor Abraham, nonostante tutte le sue chiacchiere sui bravi cristiani. Il giorno che ha piovuto era sabato, disse Mary. Domenica c'era bel tempo. Io non sono andata alla scuola domenicale perché avevo mal di denti, ma tutti gli altri invece sì, e hanno visto i vostri mobili sul prato. Il signor Abraham e sua moglie vi hanno anche visto sbattere i tappeti nel cimitero. Una si sedette tra le margherite e cominciò a piangere. Dunque, disse Jem risoluto, questa faccenda va chiarita. Qualcuno ha commesso un errore. Domenica, in effetti, il tempo era bello, Faith. Come hai fatto a scambiarla con il sabato? Giovedì c'è stato il raduno di preghiera, esclamò Faith. Venerdì Adam è caduto dentro al pentolone della zuppa perché il gatto di zia Marta lo stava inseguendo e ci ha rovinato la cena. E sabato c'era un serpente in cantina e Carla lo ha preso con un ramo biforcuto e lo ha portato fuori. E domenica c'è stata la pioggia, ecco qua. Il raduno di preghiera è stato di mercoledì, disse Mary. Doveva guidarlo il signor Baxter, ma quel giovedì non poteva, perciò l'hanno spostato al mercoledì. Hai saltato un giorno, Faith Meredith, e hai lavorato di domenica. A quel punto Faith scoppiò a ridere. Mi sa proprio di sì, che buffo scherzo. Non è esattamente uno scherzo per tuo padre, disse Mary in tono sgradevole. Oh, ma le cose si sistemeranno quando la gente capirà che è stato solo un errore, disse Faith spensierata. Glielo spiegheremo. Oh, puoi spiegarlo fino a farti andar via la voce, disse Mary. Ma una storia come questa viaggerà sempre più lontano e più veloce di te. Conosco qualcosa in più di voi sul mondo, quindi so di che parlo. Inoltre un sacco di gente non crederà che vi siete sbagliate. E invece sì, se glielo diciamo, rispose Faith. Non potrete certo dirlo a tutti quanti, disse Mary. No, mi dispiace, ma purtroppo avete messo vostro padre nei guai. La serata di Una fu rovinata da quel triste pensiero. Faith invece si rifiutava di sentirsi in colpa. In ogni caso, aveva un piano per sistemare le cose. Si lasciò quindi il passato alle spalle e si dedicò a godersi il presente. Jem andò a pescare e Walter si risvegliò dalle sue fantasticherie e cominciò a descrivere i boschi del paradiso. Mary aprì le orecchie e lo ascoltò rispettosamente. Nonostante Walter la intimidisse, le piaceva molto quando parlava come un libro, le suscitava sempre una piacevole sensazione. Aveva passato il pomeriggio a leggere Coleridge e descrisse per loro un paradiso in cui c'erano bei giardini, ruscelli sinuosi, alberi da incenso in fioritura, c'erano boschi antichi come le colline e assolate macchie di verdura. Non sapevo ci fossero boschi in paradiso, disse Mary con un lungo sospiro. Pensavo ci fossero solo strade, strade e altre strade. Certo che ci sono i boschi, disse Nan. La nostra mamma non potrebbe vivere senza alberi e nemmeno io. Non avrebbe senso andare in paradiso se non ci fossero. Ci sono anche delle città, disse il giovane sognatore. Splendide città dello stesso colore del tramonto, con torri di zaffiro e cupole arcobaleno. Sono fatte d'oro e di diamanti e ci sono strade intere di diamanti che risplendono al sole. E nelle piazze ci sono fontane di cristallo baciate dalla luce e ovunque fiorisce l'asfodelo, il fiore del paradiso. Pensa te, disse Mary, una volta ho visto la strada principale di Charlottetown e ho pensato che fosse magnifica, ma immagino che non sia nulla in confronto al paradiso. Da come ne parli sembra tutto splendido, ma non sarà anche un po' noioso? Oh, di sicuro troveremo il modo di divertirci appena gli angeli si distraggono un momento. In paradiso è tutto divertente, affermò Dee. Non secondo la Bibbia, esclamò Mary, che di domenica, sotto l'occhio attento della signorina Cornelia, ne leggeva così tante pagine che ormai si considerava una sorta di autorità in materia. Mamma dice che il linguaggio della Bibbia è metaforico, disse Nan. Significa che non è vero? Chiese Mary speranzosa. No, non esattamente. Credo significhi che il paradiso sarà esattamente come ognuno vuole che sia. Oh, io vorrei che fosse uguale alla Valle dell'Arcobaleno, disse Mary, con tutti voi per chiacchierare e giocare. A me basta questo. In ogni caso, non potremo andare in paradiso prima di essere morti, e magari non ci andremo proprio, perciò perché preoccuparsene? Sta tornando Jem con un bel po' di trote ed è il mio turno per friggerle. Dovremmo saperne di più di Walter sul paradiso, visto che siamo la famiglia del pastore, disse una mentre tornavano a casa quella sera. Ne sappiamo quanto lui, è solo che Walter sa anche immaginarlo, disse Faith. La signora Elliot dice che in questo è come sua madre. Quanto vorrei non aver fatto quell'errore domenica, sospirò una. Non preoccuparti, ho pensato a un'idea fantastica per spiegare la faccenda a tutti, disse Faith. Abbi pazienza fino a domani sera. Una spiegazione e una sfida. Il reverendo Cooper fu invitato a Glen St. Mary a dire l'omelia la sera successiva e la chiesa presbiteriana si riempì di gente arrivata da ogni dove. Il reverendo aveva fama di essere un parlatore molto eloquente. E tenendo bene a mente il vecchio detto, secondo cui un predicatore doveva conservare i suoi abiti migliori per quando andava in città e i suoi sermoni migliori per quando andava in campagna, fece un discorso molto erudito e ragguardevole. Ma le chiacchiere della gente che tornò a casa quella sera non riguardavano il sermone del reverendo Cooper, l'avevano completamente dimenticato. Il reverendo aveva concluso con un fervente appello, si era asciugato il sudore dalla fronte, aveva detto preghiamo con quella sua famosa enfasi e aveva di conseguenza pregato. Poi c'era stata una breve pausa. Nella chiesa di Glen St. Mary la vecchia tradizione di raccogliere l'elemosina dopo il sermone, invece che prima, era ancora in vigore. Principalmente perché i metodisti avevano adottato per primi la nuova consuetudine. E la signorina Cornelia e il signor Clow non avevano nessuna intenzione di seguire il loro esempio. Charles Baxter e Thomas Douglas, incaricati di passare tra i banchi, stavano per alzarsi. L'organista aveva tirato fuori lo spartito e il coro si era schiarito la voce. Ma proprio in quel momento, Faith Meredith si alzò dal banco riservato agli abitanti della canonica, salì sul pulpito e fronteggiò la folla sbalordita. La signorina Cornelia fece per alzarsi, ma poi tornò a sedere. Il suo banco era piuttosto lontano, perciò qualsiasi cosa Faith avesse in mente di dire o di fare sarebbe stata compiuta almeno per metà prima che lei potesse raggiungerla. Non era il caso di rendere quello spettacolo ancora peggiore di quanto non fosse già. Dopo aver rivolto uno sguardo atterrito alla signora Blythe e un altro a Deacon Warren della Chiesa Metodista, la signorina Cornelia si rassegnò a un nuovo scandalo. Oh, se almeno quella bambina fosse vestita come si deve, brontolò tra sé e sé. Faith aveva versato dell'inchiostro sul suo vestito buono e aveva indossato, senza preoccuparsene troppo, un vecchio abito rosa con una stampa scolorita. Uno strappo obliquo nella gonna era stato rammendato con del filo rosso e l'orlo si era allentato, lasciando intravedere una striscia di rosa ancora vivace. Ma Faith non pensava minimamente ai vestiti. Tutto a un tratto si sentiva nervosa. Quel che nella sua immaginazione sembrava facilissimo, in realtà era un'impresa ardua. Di fronte a tutti quegli occhi che la fissavano perplessi, il coraggio di Faith per poco non venne meno. Le luci erano così vivide e il silenzio così maestoso che per un attimo credette di non riuscire a parlare, ma doveva scagionare suo padre da ogni sospetto, solo che le parole non le venivano. Dal banco della canonica, il visetto candido come una perla di una era rivolto verso di lei, con un'espressione implorante. I bambini Blythe erano stupefatti e in fondo, sotto la balconata, Faith intravide il sorriso dolce e delicato della signorina Rosemary West e lo sguardo divertito della signorina Ellen. Ma niente di tutto questo l'aiutò. A salvare la situazione fu Bertie Shakespeare. Bertie era seduto nella prima fila della balconata e le fece una boccaccia. Faith ricambiò immediatamente, poi, furiosa per essere stata presa in giro, dimenticò il suo panico da palcoscenico, ritrovò l'uso della parola e parlò con voce chiara e coraggiosa. «Voglio spiegarvi una cosa», disse, «e voglio farlo adesso, così mi sentirete tutti. Giravoce che domenica scorsa io e una siamo rimaste a casa a fare le pulizie, invece di andare alla scuola domenicale. Beh, è vero, ma non l'abbiamo fatto apposta. Ci siamo confuse con i giorni della settimana». È stata tutta colpa del signor Baxter. Una certa agitazione si diffuse nel banco dei Baxter. Perché ha spostato il raduno di preghiera al mercoledì sera e quindi noi abbiamo pensato che giovedì fosse venerdì e che sabato fosse domenica. Carla e zia Marta erano malati e quindi non potevano avvisarci. Sabato siamo andate alla scuola domenicale sotto tutta quella pioggia e non c'era nessuno. E allora abbiamo pensato di dedicare il lunedì a pulire casa. Così tutte le vecchie galline del paese avrebbero smesso di spettegolare su quanto era sporca la canonica. L'agitazione si propagò in tutta la chiesa. E così abbiamo fatto. Ho sbattuto i tappeti nel cimitero metodista perché era comodo. Non volevo certo mancare di rispetto ai defunti. Infatti sono stati vivi a farne un problema, mica loro. E non è giusto che diate la colpa a mio padre perché lui non c'era e non sapeva niente. Comunque noi pensavamo che fosse lunedì. Il nostro è il padre migliore che esista al mondo e noi gli vogliamo tanto bene con tutto il cuore. L'audace impresa di Faith si concluse con un singhiozzo, dopodiché lei scese di corsa ai gradini del pulpito e uscì dalla porticina laterale. Il cielo stellato di quella sera d'estate la consolò e occhi e gola si liberarono di tutta la sofferenza accumulata. Era molto felice. Il terribile momento della spiegazione era passato e adesso tutti sapevano che non era stata colpa di suo padre. E che lei e una non erano così malvagie da essersi messe consapevolmente a pulir casa di domenica. Dentro la chiesa, i fedeli continuavano a guardarsi l'un l'altro esterrefatti. Poi Thomas Douglas si alzò e si avviò lungo la navata. Almeno lui sapeva qual era il suo dovere. Qualunque cosa fosse accaduta, bisognava comunque raccogliere le offerte. E così fece. Il coro cantò quindi l'inno. E con grande disappunto dei cantori suonò terribilmente incolore. E infine il reverendo Cooper intonò il salmo finale e pronunciò una benedizione decisamente meno solenne del solito. Aveva infatti un certo senso dell'umorismo che era stato solleticato dall'esibizione di Faith e conosceva bene John Meredith, che era piuttosto noto nei circoli presbiteriani. Il signor Meredith tornò a casa il pomeriggio seguente, ma prima del suo arrivo Faith ebbe tempo di scandalizzare una seconda volta Glen St. Mary. Quel lunedì, forse a causa dell'intenso sforzo sostenuto la sera precedente, era particolarmente presa da quello che la signorina Cornelia avrebbe definito spirito diabolico, il che la indusse a sfidare Walter Blythe a percorrere con lei la strada principale, ciascuno in groppa a un maiale. I maiali in questione erano due animali grossi e agili, apparentemente di proprietà del padre di Bertie Shakespeare Drew, che da un paio di settimane infestavano i dintorni della strada della canonica. Walter non aveva molta voglia di attraversare Glen St. Mary in groppa a un maiale, ma le sfide lanciate da Faith Meredith andavano sempre accettate. I due si precipitarono quindi giù dalla collina fino al paese. Faith, piegata in due dalle risate su quella ben strana cavalcatura, Walter paonazzo per la vergogna. Passarono proprio davanti al pastore Meredith, che stava tornando a casa dalla stazione, e lui, lievemente meno assente tra le nuvole del solito, perché sul treno aveva fatto una chiacchierata con la signorina Cornelia, la quale aveva il potere di risvegliarlo temporaneamente, li notò. E pensò che doveva proprio discuterne con Faith e spiegarle che quello non era un comportamento accettabile. Giunto a casa, tuttavia, aveva già dimenticato quell'insignificante episodio. Walter e Faith incontrarono poi la moglie di Alec Davis, che gridò inorridita, e la signorina Rosemary West, che rise e sospirò. Infine, poco prima che i maiali si infilassero nel cortile della casa di Bertie Shakespeare Drew, dal quale non sarebbero mai più usciti, troppo traumatizzati dall'accaduto, Faith e Walter balzarono a terra, proprio mentre il signore e la signora Blythe passavano di là in calesse. «Ah, è così che educhi i ragazzi, vedo», disse Gilbert in tono scherzoso. «Forse li vizio un po', è vero», disse Anna un po' imbarazzata. «Ma Gilbert, se ripenso alla mia infanzia, prima di Green Gables, non ce la faccio proprio ad essere severa. Ero così affamata di amore, di divertimento. Ero una serveta a cui nessuno voleva bene e che non aveva mai occasione di giocare. Loro invece si divertono così tanto con i bambini della canonica. Ma che mi dici di quei poveri maiali?» chiese Gilbert. Anna tentò di restare seria, ma non ci riuscì. «Davvero credi che gli abbiano fatto del male?» disse. «Niente, nessuno potrebbe. Quelle bestie sono state un incubo per tutto il vicinato quest'estate e i Drew non ne vogliono sapere di rinchiuderli. Comunque parlerò a Walter, sempre che riesca a farlo senza ridere.» Quella sera la signorina Cornelia andò a Ingleside per sfogarsi riguardo ciò che era accaduto la domenica sera. Con sua grande sorpresa constatò che Anna vedeva l'esibizione di Faith sotto una luce completamente diversa. «Devo confessare che ho trovato molto coraggioso e drammatico il modo in cui si è alzata per parlare di fronte alla chiesa piena di gente», disse. «Si vedeva che moriva di paura». Ma era decisa a scagionare suo padre. Ecco perché alla fine mi è piaciuta molto. «Sì, certo, le intenzioni di quella povera bambina erano buone», sospirò la signorina Cornelia, «ma è stata comunque una cosa terribile da fare. E susciterà ancora più pettegolezzi della faccenda delle pulizie di domenica. Di quella ormai non se ne parlava quasi più, ma adesso ovviamente le chiacchiere sono ripartite. Rosemary West comunque la pensa come te. All'uscita dalla chiesa ha detto che Faith era stata molto coraggiosa e che le dispiaceva un po' per lei. La signorina Ellen invece l'ha trovato un bellissimo scherzo. Ha detto che erano anni che non si divertiva così tanto in chiesa. Ma ovviamente a loro non importa molto, visto che sono episcopali. Per noi presbiteriani è diverso, per non parlare del fatto che c'erano un sacco di ospiti l'altra sera e tantissimi metodisti. La moglie di Leander Crawford si è vergognata così tanto che ha pianto, e la signora Davis ha detto che quella piccola impertinente dovrebbe essere sculacciata. «Oh, la signora Crawford piange sempre in chiesa», disse Susan sprezzante. «Piange ogni volta che il pastore dice qualcosa di vagamente sentimentale. Però nell'elenco delle offerte il suo nome non compare molto spesso, signora dottora cara. Oh no, le lacrime costano certamente meno. Un giorno voleva parlare con me di quanto la zia Marta sia una pessima governante e io morivo dalla voglia di dirle che lo sappiamo tutti che lei impasta le torte nel lavandino della cucina. Ma non gliel'ho detto, signora dottora, perché ho troppo rispetto di me stessa per abbassarmi a discutere con una come lei. E comunque, se fossi una pettegola potrei dire ben di peggio sulla signora Crawford. Per quanto riguarda la signora Davis, invece, se avessi detto quelle cose a me, lo sa come le avrei risposto, signora dottora? Avrei detto: sono sicura che le piacerebbe sculacciare Faith, signora Davis, ma non potrà mai sculacciare la figlia di un pastore, né in questo mondo né in quello che deve venire. Oh, se solo la povera Faith avesse avuto un abito decente, si lamentò di nuovo la signorina Cornelia. Sarebbe stato un po' meglio. Mentre era lì sul pulpito, quel vestito era davvero inguardabile. Però era pulito, signora dottora cara, disse Susan. Sono sempre puliti quei bambini. Magari sono un po' distratti e incoscienti, non dico di no, ma non dimenticano mai di lavarsi anche dietro le orecchie. Se penso al fatto che Faith ha dimenticato che giorno era domenica, insisté la signorina Cornelia, crescerà sbadata e con la testa tra le nuvole come suo padre, credete a me. Immagino che Carl se ne sarebbe accorto se non fosse stato malato. Non so cosa ha avuto, ma probabilmente ha mangiato i mirtilli che crescono nel cimitero e non mi stupisco che gli abbiano fatto male. Se fossi una metodista, proverei almeno a tenere in ordine quel cimitero. Secondo me, Carl si è limitato a mangiare le erbe aspre che crescono nel fossato, disse Susan speranzosa. Non credo che il figlio di un pastore mangerebbe mai dei mirtilli cresciuti sulle tombe dei defunti. E mangiare quelle erbe del fossato non è poi così grave, signora dottora cara. La cosa peggiore dell'altra sera, comunque, è stata la boccaccia che Faith ha rivolto a qualcuno della congregazione prima di cominciare. Disse la signorina Cornelia. Abraham Clow dice che ce l'aveva con lui. E avete sentito che oggi l'hanno vista in groppa a un maiale? Io l'ho vista. C'era anche Walter con lei. L'ho sgridato. Un pochino. Lui non mi ha detto molto, ma mi ha dato l'impressione che fosse stata una sua idea e non di Faith. Oh, a questo non ci credo, signora dottora cara, disse Susan inalberandosi. Walter fa sempre così. Si prende lui la colpa di tutto. Ma sa bene quanto me, signora dottora, che a quel benedetto bambino non sarebbe mai passato per la testa di salire in groppa a un maiale, sebbene certo continui a scrivere poesie. L'idea è stata sicuramente di Faith Meredith, disse la signorina Cornelia, anche se devo dire che non mi dispiace che quei vecchi maiali di Amos Drew abbiano avuto quel che si meritano per una volta. Però è pur sempre la figlia del pastore. È il figlio del dottore, disse Anna, imitando il tono indignato della signorina Cornelia. Poi scoppiò a ridere. Cara signorina Cornelia, sono solo bambini. Lo sa anche lei che non hanno mai fatto niente di male. Sono solo sbadati e impulsivi, come ero io una volta. Crescendo diventeranno più calmi e posati, come è successo a me. E fu il turno della signorina Cornelia di ridere. A volte, Anna cara, te lo leggo negli occhi che la tua compostezza è solo di facciata. E che ti piacerebbe molto fare di nuovo qualcosa di pazzo come se fossi una ragazzina. In ogni caso mi sento un po' meglio. Parlare con te mi fa sempre questo effetto. Quando vado a trovare Barbara Sampson, invece, succede l'esatto opposto. Mi fa sentire come se a questo mondo fosse tutto sbagliato, senza possibilità di rimedio. Ma immagino che vivere con un uomo come Joe Sampson non metta molta allegria. È proprio strano che abbia sposato lui, con tutte le occasioni che ha avuto, commentò Susan. Era molto ambita quando era ragazza e si vantava con me di aver 21 corteggiatori più il signor Pitik. E chi era il signor Pitik? Beh, era una sorta di parassita, signora dottora cara. Non esattamente un corteggiatore. Non aveva intenzioni serie. Pensi, 21 corteggiatori. E io invece non ne ho mai avuto nessuno. Ma alla fine, con tutta questa legna a disposizione, Barbara ha scelto il ramo più storto di tutti. Però gira voce che suo marito sia più bravo di lei a fare i biscotti e che lei riesca sempre a convincerlo a prepararli quando hanno ospiti per il tè. A proposito, domani ho io ospiti. Devo andare a casa a preparare il pane, disse la signorina Cornelia. Mary ha detto che poteva farlo lei e non dubito che sia in grado, ma finché campo e riesco ancora a muovermi e sono ancora me stessa, al pane ci penso io, credete a me. Come va con Mary? Chiese Anna. Non ho nulla da rimproverarle, disse in tono solenne la signorina Cornelia. Sta mettendo su un po' di carne su quelle ossa. È pulita, è rispettosa, anche se in lei c'è più di quel che riesco a vedere. È una ragazzina furba. Si potrebbe scavare per 1.000 anni senza arrivare al fondo dell'animo di quella bambina, credete a me. Dal punto di vista delle faccende, non ho mai conosciuto nessuna come lei. Fa tutto in un battibaleno. La signora Wiley è stata senz'altro crudele con lei, ma di certo le ha insegnato come si lavora. Mary, comunque, è una lavoratrice nata. A volte mi chiedo cosa si stanchi prima, se le sue gambe o la sua lingua. Se Negli ultimi tempi non è rimasto granché da fare per me, per tenermi occupata. Sarò molto felice quando le scuole riapriranno, così potrò di nuovo sbrigare qualche faccenda. Eri non ci vuole andare a scuola, ma io mi sono impuntata e le ho detto che deve farlo. Non darò modo ai metodisti di dire che non ce la mando perché voglio crogiolarmi nella nulla facenza.